vieni al matrimonio di Ruggero, potresti farmi compagnia, sto andando lì da solo, se no vieni, magari col traghetto che sarà meno veloce, ma sdraiarsi sul ponte si può. Sarai